che per me non sei un rimorso. Morso, il mio mostro che dentro porto come il vento in quel posto Azkaban, dove sogno il tempo infinito di ogni mio sguardo eterno, l'occhio del tutto che tutto guarda, che dentro porto nessun rimorso. È come il vento, come il soffio dalla bocca della fauce di un orso, nessun rimorso. È il pelo tosto di una guerra di graffie stenti di un orso. Ragazzi dello zoo di Berlino, alzatevi, e siamo animali dentro, con dentro un vento, che Cristo prega per me che non sento, dammi il vento dentro, la pioggia, il sole, e negli occhi tutte quelle stupende parole, portami altrove, in alto per sempre, dove solo un falco suole volare per sempre sopra anche il sole, per sempre nel mio cuore tu ora muore.